Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Martedì scorso tre operai sono morti in modo atroce. I loro ultimi attimi di vita, strappati in modo raccapricciante, sono stati di solidarietà umana. Hanno tentato di strappare uno di loro alla morte e ne sono stati falciati tutti e tre. La loro morte non cambierà niente. Altri operai e operaie moriranno oggi, e altri ancora domani e poi dopodomani. Se alla fine dell'anno l'Istat ne conterà qualcuno in meno dell'anno precedente, qualcuno al governo si pavoneggerà dei risultati raggiunti, anche se la cifra sarà sempre una spaventosa ecatombe che riempie l'Italia di vedove e di orfani. La morte di questi e di tutti gli altri lavoratori, caduti spesso per un lavoro durissimo, pagato meno di 1.000 euro al mese, non è dovuta al caso. Una responsabilità è certamente quella legata al turnover, all'utilizzo di operai usa e getta, al quale ricorrono le imprese che spesso sono di subappalto. Cambiare squadre di operai ogni giorno oppure ogni settimana per assumere spesso i più disperati per non avere storie con i diritti che gli operai maturano con l'anzianità può far comodo alle imprese che vogliono ricavare il massimo profitto della commessa che hanno ricevuto. Ma l'operaio usa e getta non ha esperienza e l'azienda di cui è dipendente non accumula know-how. La mancata accumulazione di esperienza per l'uso sempre più diffuso di lavoro precario e occasionale non è solo pericolosa, ma costituisce una perdita secca per l'intera società, che si impoverisce di cultura tecnica e di specializzazioni ben collaudate. L'altra ragione è legata allo stress di turni pesantissimi e sempre più lunghi, che si svolgono con la copertura di un inaccettabile orientamento della legislazione, che fissa fino a 13 ore la soglia dell'orario di lavoro e che vorrebbe portare ad oltre 60 ore il lavoro settimanale. Ma al centro della questione è la mercificazione del lavoro, della prestazione lavorativa e della stessa vita del lavoratore, che la società capitalistica e assolidale accetta con indifferenza, sia pure dissimulata da un finto scandalizzarsi dei mass media. Lo considera un costo necessario per tenere in piedi la baracca in cui viviamo. Oggi il lavoratore conta pochissimo, non solo in fabbrica, ma anche dentro il suo stesso sindacato, ammesso che ne abbia uno. Le aziende vogliono che gli addetti alla sicurezza siano comparse passive, lavoratori che, se vogliono continuare a guadagnarsi il pane, debbono stare zitti, non chiedere niente, non sapere niente di quello che dovrebbero sapere sui macchinari e sull'organizzazione del lavoro. Il sindacato è molto impegnato a realizzare enti bilaterali e accetta un ruolo di collaborazione sempre più subalterno al dio imprenditore. Questo sindacato non combatterà la battaglia contro la morte in fabbrica chiedendo poteri per i delegati alla sicurezza. Questo è il mio rammarico più grande, la mia più grande amarezza. Pietro. Gentile direttore, della sinistra viene detto che non avendo argomenti con cui attaccare Berlusconi, si butta su argomenti di gossip che si basano su chiacchiere e non su prove oggettive. Vedi varie gaffe o il caso Noemi. Quando non si parla di gossip e si prendono argomenti politici come ad esempio il caso Mills, dove c'è una sentenza di giudici basata su prove oggettive, dove si dice che Berlusconi ha corrotto una persona per testimoniare il falso in suo favore, traendone profitto e procurando un danno a terze persone, si finisce per dire che i giudici sono faziosi e di sinistra. Ma in che paese viviamo? Non ci dobbiamo scandalizzare che venga sentenziata l'azione corruttiva di colui che amministra il nostro paese e ci dobbiamo invece scandalizzare di quei giudici che, sulla base di prove oggettive, non possiamo pensare che le prove siano oggettive solo quando sono a proprio favore, decidono di condannare una persona indicando inequivocabilmente anche il nome del corruttore. Mi aiuti a capire, direttore, ma in che paese viviamo? Vorrei dimostrare la mia fierezza d'essere italiano, ma poi penso, fiero di cosa? Luca, Roma. Egregio direttore, un veloce sfogo di un italiano. I miei figli li educo io e comunque non li darei mai a chi sa solo denigrare gli altri. Sono fermamente anti-estremista e vedo una parte politica con l'80% di estremisti che accusa l'altra che ha l'1,5% di estremisti. Che dire, devo stare attento, molto attento a chi dare il mio voto e consiglio a tutti gli italiani di fare altrettanto. Consiglio di giudicare le proposte e i risultati, non le propagande o le accuse. Stefano. Egregio direttore, mi dispiace ma Berlusconi se l'è cercata. fossi un altro, non condividerei l'accanimento su una vicenda imbarazzante quanto si vuole, ma privata. La privacy è sacra. Ma quando penso alle agiografie di famiglia ricca, felice e invidiata, periodicamente narrate sui rotocalchi di proprietà, quando penso alle foto non rubate ma diffuse con compiacenza, con le ragazze del Grande Fratello sulle sue ginocchia nella villa padronale, quando penso alle sue battute da Stallone italiano nelle più svariate occasioni ufficiali, quando penso al fatto che mentre si fa vanto di tutto questo, il suo governo e lui personalmente si spendono per approvare leggi in cui ovviamente, in nome di Dio, lo Stato ci dice come dobbiamo vivere, come dobbiamo concepire, come dobbiamo curarci e come dobbiamo morire, quando penso a tutto questo, mi viene lo stesso pensiero che deve essere venuto alla sua signora. Mi viene il vomito, è più forte di me. Chiedo scusa per il prestito a Vasco Rossi. Berlusconi non si accontenta di vincere. Come tutti gli imperatori vuole stravincere. E come sempre nell'apice del suo potere si intravedono i primi robusti segnali della sua decadenza e della sua fine. Nicola. Sono un 35enne di Viareggio, elettore del centrodestra. Scrivo per dire in tutta onestà che, pur essendo un appassionato di politica, non avevo intenzione di andare a votare alla prossima consultazione per le europee. La dichiarazione di Franceschini di giovedì pomeriggio, tuttavia, mi ha fatto cambiare idea. Andrò a votare. Voterò ancora centrodestra. E purtroppo non avrò alternative, finché l'attuale opposizione non avrà altri metodi se non quelli che la caratterizzano da un bel po' di anni. Gabriele. Qual è la pietra dello scandalo nella domanda di Franceschini? Ha posto una domanda con una risposta, la sua, implicita. Ovvero, no, io, Franceschini, non affiderei i miei figli ad un uomo che considero portatore di valori negativi. Anch'io mi associo a Franceschini, avrei detto queste cose un mese, un anno o 10 anni fa. Berlusconi da 15 anni fa la vittima a tutto campo e contemporaneamente offende, attacca ed infanga chiunque sia contro di lui, che siano politici, magistrati, giornali o elettori di sinistra. Perché questo credito infinito che la stampa ed i media concedono a Berlusconi, senza mai contestare la sua ipocrisia e il suo essere continuamente vittima e carnefice al tempo stesso? Nicola, Bergamo. Non so che cosa penseranno i cattolici schierati nel PD delle sparate moralistiche del loro leader Franceschini. Come elettore cattolico, che potrebbe definirsi di centro, in questi giorni le uscite di Franceschini mi hanno fatto ricordare un personaggio descritto nel Vangelo, che vedo attualizzato così. Ti ringrazio, Padre, che non sono come quelli di centrodestra. Io pago le decime, e il nostro comportamento morale è ineccepibile. E non sono nemmeno come quel Berlusconi, adultero, ricco e adescatore di belle ragazze. Non è forse questo, mi chiedo, un atteggiamento farisaico, dal momento che un cattolico dovrebbe sapere che siamo tutti peccatori? Si sa che Cristo è stato particolarmente severo con la categoria dei farisei, chiamandoli sepolcri imbiancati e razza di vipere. È davvero convinto, Franceschini, che questo modo di fare opposizione sia pagante? Non pensa che è su altri temi che si dovrebbe esercitare il controllo dell'operato della maggioranza? Non denota forse questo comportamento un'enorme povertà di idee e una crisi profonda del suo partito? Visto che siamo tutti peccatori e che i poveri li avremo sempre con noi, non sarebbe il caso di rispettare gli italiani che hanno votato per questo governo e, dato il momento difficile che attraversiamo, essere più propositivi? Perché considerare del tutto negativo l'operato di questo governo? Se un giorno saranno loro al governo, come auspico, essendo io un fautore dell'alternanza, desidererebbero forse un trattamento analogo, visto che anche loro non sono impeccabili. La cosa che mi rattrista, poi, è la puntuale critica di certa stampa inglese, per la quale vale la stessa osservazione. Questo comportamento mi ha fatto ricordare quanto la massoneria inglese ha contribuito a far sì che l'unità d'Italia venisse fatta, cercando di distruggere l'humus culturale cattolico, considerato retrogrado, creando problemi che ancora paghiamo. Ancora mi viene da dire, da che pulpito viene la predica? Per questo sono convinto che, come allora, le elite culturali dominanti, principalmente espressione della sinistra radical chic, che pontificano da vari organi di informazione, non rappresentano affatto l'anima profonda del popolo italiano. Claudio. I suoi festini con le donne non sarebbero un problema se Berlusconi non si rappresentasse come il custode e difensore della famiglia e dei valori cattolici. Un minimo di coerenza ai nostri politici si può richiedere. O ci dobbiamo sorbire tutto senza fiatare. Vittorio. Vorrei far notare che l'età del consenso sessuale in Italia, come quasi in tutto il mondo occidentale, è di 14 anni, che sale a 16 nel caso in cui il partner sia una figura come il catechista, il medico personale, eccetera. È richiesta la maggiore età solo nel caso in cui il partner sia il genitore, anche adottivo o il tutore. Quindi non potrebbe esserci reato neanche se il premier fosse passato dal platonico allo stoico. Quindi, di cosa stiamo parlando? Riccardo. Caro dottor Fabi, una cosa che non mi spiego è perché per poter votare devi trovarti per forza a casa nella tua città e ti viene negata la possibilità di farlo se per vari motivi sei in un altro luogo. Io, pur desiderando farlo, non potrò votare perché per esigenze familiari mi troverò in un'altra regione d'Italia. E sono delusa, un po' arrabbiata, e mi domando come mai nel 2009 non si sia ancora trovato un sistema per permettere ai cittadini di esercitare un diritto così importante. E perché in tempi di informatica siamo ancora costretti a presentarci nella scuola di zona per poter votare. Sono tanti i miei perché. Vogliamo pensarci per il futuro? Giulia. Cara Giulia, ha perfettamente ragione. In tutti i paesi civili il voto per corrispondenza è previsto e regolarmente utilizzato. Invece in Italia le cose sono più complesse. Per le elezioni europee è infatti ammesso solo il voto nei consolati per i residenti nei paesi dell'Unione Europea e il voto per corrispondenza solo per i militari o appartenenti alle forze di polizia in missione internazionale, per i dipendenti di amministrazioni pubbliche per motivi di servizio, per i professori universitari e i loro familiari con incarichi all'estero. Si tratta quindi di casi molto particolari. Chi è in viaggio, per turismo o per lavoro, anche all'interno dell'Italia, è praticamente impossibilitato a votare. Questa complessità è solo in parte giustificata con il rischio di abusi e brogli elettorali da una parte e con le necessarie garanzie di segretezza del voto dall'altra. Un paese veramente moderno dovrebbe fare di tutto per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini ai momenti centrali della vita democratica. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.